A due passi da casa vostra, nei negozi della cooperativa agricola di consumo di via Andrea Doria 45, via Italia 8 e via De Mille, angolo via Increa, troverete prezzi e prodotti veramente convenienti. Evviva, evviva, evviva, evviva, evviva. La cooperativa agricola di consumo vi offre l'ascolto di questo disco.